Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Come vi ho detto, eccoci qua pronti per ritrovare con noi al telefono Gianluca Codognato. Ciao Gianluca, ben trovato. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. Allora Gianluca, siamo in inverno, adesso il freddo si fa un po' più vivace e frizzante e quindi bisogna stare un attimo attenti anche a regolare bene le temperature delle nostre case, dei nostri appartamenti, perché poi questo va a incidere sui costi delle nostre bollette del gas e dell'energia. Sì, è arrivato decisamente il freddo, non possiamo negarlo, ed era giusto che fosse così, quindi termosifoni e riscaldamento al massimo, quasi al massimo, magari più avanti sarà ancora più forte. In ogni caso diciamo che è già cominciato un po', la gente ha già cominciato a contare quanti soldi poi andrà a spendere nei mesi invernali, che si sa. E chiaramente per quanto riguarda il consumo di gas, a livello di bollette, sono dei mesi abbastanza pesanti. Però Francesco, volevamo fare dei ragionamenti che vanno anche un po' al di là e oltre a quello che diciamo spesso nei confronti del futuro mercato totalmente liberalizzato, sì. Ovvero quando non esisterà più il mercato di maggior tutela, e in ogni caso di quello che diciamo sempre sul mercato liberalizzato, che c'è ovviamente, perché ci si può immergere in decine e decine di offerte da parte di operatori sia di gas sia di energia elettrica, però molte volte noi diciamo state attenti a chi, soprattutto a chi vi viene in casa, a chi vi fa delle offerte, a chi vi fa delle proposte, o oppure a chi vi contatta telefonicamente. Ben diverso è il discorso se invece siamo noi oculati nella scelta, cioè se siamo noi che andiamo a valutare le varie opportunità, perché tramite degli strumenti, uno dei quali è fondamentale è il trovo offerte dell'autorità per il gas, l'energia e il servizio idrico, che tra l'altro il cui link tra l'altro potrete trovare anche sul nostro sito, quindi dal nostro sito potrete accedere direttamente al trovo offerte proposto dall'autorità. Beh, Francesco, ci si trova veramente di fronte a molte offerte, però stiamo parlando di 20-25 offerte, che però possono sia andare a coprire tutte le esigenze, ma anche tutte le tasche. Per andare a fare degli esempi concreti, noi ovviamente abbiamo voluto farli, perché ci sembra il caso insomma di dare sempre degli esempi concreti per capire la situazione. Allora, anzitutto abbiamo preso in esame due tipologie di abitazioni. Partiamo dalla prima, un'abitazione non grandissima di 70 metri quadri e una un po' più grande invece di 100 metri quadri, quindi chiaramente con due consumi diversi. Per quanto riguarda la prima, chiaramente ci siamo affidati a degli esperti che ci hanno suggerito un po' la tipologia di consumi, ma ricordiamoci che noi sulla bolletta abbiamo un consumo medio anno stimato, quindi noi sappiamo all'incirca quando andiamo a consumare di metri cubi, in questo caso di gas, in un anno. Quindi per quanto riguarda, dicevamo, la prima casa, abbiamo comparato 25 offerte di 25 operatori diversi, e sempre grazie al portale dell'autorità garante. Ebbene, abbiamo scoperto che veramente ci possono essere delle differenze di tariffe notevoli. Per esempio, per quanto riguarda la casa di 70 metri quadri, abbiamo visto che in questo caso con Sorgenia, poi può essere che col tempo possa anche non cambiare le offerte e che ci siano delle offerte migliori di altre aziende. In questo caso abbiamo Sorgenia, e si rivela l'azienda più economica per questo tipo di consumo, quindi 800 sì. metri cubi. Infatti si andranno a spendere esattamente nell'anno 521,53 euro, mentre con l'azienda più cara, che in questo caso è Invent, che è appunto il gestore più caro, si va a spendere 805,04 euro, quindi il 35% in più rispetto a Sorgenia in questo caso qua. Ma addirittura scegliendo, sempre grazie alle offerte che si possono trovare anche passando tramite il nostro sito, sempre Sorgenia, in questo caso con questo tipo di consumo, anche rispetto al mercato tutelato, ci ottiene comunque un risparmio di una novantina di euro. Quindi l'offerta più bassa è più vantaggiosa anche di quella che esiste nel mercato tutelato. Questo è una cosa che le persone devono capire, devono sapere, perché è giusto sapere che la liberalizzazione in realtà, come è anche successo ovviamente con i telefonini, dovrebbe aiutare a diminuire i prezzi, a diminuire i costi. Questo è il concetto fondamentale per cui certo. viene accettata e per cui viene creata. È chiaro che quando ci si trova di fronte alle furbizie, le furbizie sono tante in questi campi, ci troviamo di fronte alle tante denunce che abbiamo presentato anche durante la vostra trasmissione, quindi con anziani raggirati, persone che non si ritrovano firme false e quant'altro. Se però si va al di là del call center e dei venditori porta a porta, ma con pazienza si entra in questi portali o si va anche in un negozio per chiedere informazioni e si vanno a valutare le varie offerte, veramente si possono ottenere grandi risultati. Velocemente, perché volevo anche accennare un secondo all'altro monitoraggio, 100 metri quadrati, noi abbiamo fatto sempre l'esempio del comune di Venezia, perché c'è la possibilità proprio anche di rendere molto locale la ricerca, nostro monitoraggio, sì. Abbiamo calcolato su un consumo di 1300 metri cubi e pensa che la spesa può variare dagli 855 euro di N energia ai 971 euro che sono del mercato tutelato fino ai 1199 euro di Invent SRL, che in questo caso nel nostro elenco presentato dall'autorità, ricordiamo che poi ce ne sono anche altre aziende oltre a quelle presentate nell'elenco, comunque Invent SRL è la più cara di tutti e costa addirittura 343 euro in più rispetto alla meno cara, che è Energia. Ora chiaramente con pazienza nel portale sono spiegate bene anche come funzionano le offerte, quindi anche ognuno guarderà a seconda delle proprie esigenze, però dobbiamo renderci conto che la liberalizzazione, tra i mille difetti che può avere, in realtà però crea delle opportunità per la gente oculata. Ora, Francesco, a noi il mercato tutelato interessava soprattutto per le persone anche di una certa età. Certo. Che speriamo vengano comunque tutelate anche nelle nuove, quando sarà il mercato totalmente liberalizzato. Per le persone però che sono in grado di analizzare con calma le offerte, ci possono essere veramente dei vantaggi. Quindi sfruttiamo questa cosa. Ricordo che, come hai detto tu, nel sito dell'Adico www.associazionedifesaconsumatori.it si possono trovare alcuni link, si possono trovare anche altre notizie di altre cose che seguite quotidianamente. Noi ci risentiamo tra qualche giorno. Grazie a Gianluca Codognato. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.